Eccoci in collegamento telefonico con Walter Pagliaro che cura questa Medea di Seneca, concerto per voci, recitanti e fisarmonica in scena al Teatro Palladium a Roma dal 1 al 3 marzo. Walter, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. E ci racconti un po' di questa operazione Medea di Seneca? Sì, molto volentieri. Seneca è uno scrittore fantastico che inventa una lingua solida, diciamo, volumetrica, cubista, che di per sé vale quanto un grande studioso che si chiamava Benedetto Lanza disse qualche anno fa: Seneca, ovvero ostacolo della parola. Quindi noi proviamo a proporre il testo di Seneca senza grandi azioni, senza scenografie, senza supporti di finzione, ma affidando soltanto alla parola tutta l'azione e il carico anche delle tensioni tra personaggi, gli scontri, gli agoni tra personaggi sono tutti affidati alla parola. È un po' un esperimento che viene fatto. Io lavoro da tanti anni intorno a Seneca, intorno a questo testo che ho messo in scena già altre volte, in altre maniere, ma penso che sia importante comprendere che Seneca non può essere considerato e trattato come se fosse un succedaneo di Euripide o di Sofocle. Ha una struttura e una scrittura tutte sue e quindi il nostro lavoro deve essere assolutamente in sintonia con questa visione del teatro che aveva Seneca, che era una visione fortemente declamatoria, se vogliamo, no? Infatti non si sa se poi questi suoi testi fossero stati mai rappresentati, ma questo ci interessa poco in questo momento. La cosa più importante è comprendere come la parola si può fare progetto gestuale e progetto spaziale anche. Walter, come hai pensato l'abbinamento con la musica? Guarda, esattamente in funzione straniante, nel senso che se si pensa a una musica per questi testi antichi, si pensa subito a degli strumenti un po' arcaici o addirittura o più colti, se vogliamo. Io ho proprio scelto la fisarmonica, che è uno strumento popolare, proprio perché ci fosse un grandissimo straniamento tra le parole così rutilanti del testo e invece, diciamo, un piatto sonoro contemporaneo, quasi contemporaneo. Senti, la modernità della figura di Medea. Guarda, è quasi incredibile pensare che cosa accada in questo testo. In realtà c'è una donna che fin dall'inizio ha già deciso in qualche modo irrazionalmente che deve uccidere i propri figli e compie tutto un cammino dentro la sua testa con il suo pensiero per arrivare a rendere razionale questa scelta, fino a un verso famoso che dice Medea nunc sum, adesso sono Medea, cioè dopo aver fatto tutto un percorso, tutto un tragitto, è arrivata a comprendere che il suo pensiero si colloca esattamente in sovrapposizione con la personalità di Medea, coincide con la personalità di Medea e quindi può uccidere i figli. Oggi noi, ahimè, nella cronaca ne vediamo e ne sentiamo di tutti i colori e sembra quasi che il delitto, il filicidio, diciamo, di Medea sia quasi una passeggiata rispetto ai delitti efferati cui assistiamo in questi giorni. Certamente la cosa importante è comprendere il senso di questo delitto, cioè per Seneca non è tanto un fatto di cronaca nera, ovviamente, ma quanto un'inversione, cioè nel momento in cui la madre, che per statuto è, diciamo, dalla vita, in realtà in questo modo uccide la vita, nega la vita, sopprimendo i propri figli. Quindi la natura è invertita, c'è un'inversione della natura, e tutto il testo racconta di una straordinaria favola dell'inversione. Cosa vuol dire per Seneca? Cioè, ovunque si sia vicini al palazzo, al regnum, al palazzo del potere, il male che è sottoterra torna alla superficie e invade prepotentemente l'universo, e quindi ovunque ci sia contiguità con il potere c'è il male. Walter rappresenta una tappa, sta facendo un suo percorso questa Medea a livello nazionale? Sì, certamente, perché noi la stiamo un po' portando in giro e naturalmente partiamo qui da Roma, dopodiché ci trasferiremo prima in Puglia e poi andremo in prima in tarda primavera di nuovo in Sicilia, dove questa avventura era un po' nata l'anno scorso. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Medea di Seneca, concerto per voci, recitanti e fisarmonica a cura di Walter Pagliaro al Teatro Palladium a Roma dal 1 al 3 marzo. Walter, un saluto, un ringraziamento, a risentirci presto. Grazie, il 1 marzo alle ore 18, gli altri 2 giorni alle ore 21. Grazie a voi, vi aspetto a teatro. A presto.